avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe. Uno, ça fait déjà infâme, bye. Uno dei momenti più vergognosi della giornata di oggi è stata quando io in metropolitana mi sono alzato per cedere il posto a una piccola surina anziana, quasi nana, con una gigantesca borsa, con un computer dentro, che avevo osservato che ogni volta che si alzava qualcuno faceva la mossa per andarsi a sedere, ma non faceva in tempo perché velocemente qualcun altro le rubava il posto. E vedevo la commiserazione delle persone che la guardavano, quelli in piedi, e quelli seduti facevano finta di nulla naturalmente, e lei accettava questo suo martirio mattutino con questa borsa gigantesca che era più grossa di lei, e ogni volta faceva questo passettino e un altro sedeva al posto suo. Ma alla fine mi sono alzato io, nel giro, tutto accaduto nel giro di meno di un minuto, e dico: sorella, si sieda, lei è felice, si è seduta, si è piazzata con la borsa. Fin lì sarebbe finita. Un umarel che stava accanto a me seduto a un certo punto ha iniziato a inveire. È una vergogna che gente con i capelli bianchi come noi si debba alzare con tanti giovani seduto. E mi ha coinvolto una sorta di invettiva, dandomi del vecchio decrepito, per far sentire in colpa i ragazzi che, fregandosene altamente, chi si guardava le scarpe, chi ascoltava con la cuffietta la musica, chi guardava da un'altra parte. E vergognoso sono sceso una fermata prima di quella da cui scendo tutti i giorni, perché non mi andava di essere trattato da umarel che si sacrificava per far sedere la suora. Questo è il primo esempio che mi fa riflettere sulle regole di comportamento, in attivo e in passivo. Il secondo esempio mi viene dalla televisione ieri sera. Ho visto una delle cose più vergognose e più abominevoli che abbia mai visto in televisione. La folla di Avetrana festante, bambini, vecchie, donne grasse, signori, ometti in ciabatte che prendevano il fresco, ma soprattutto bambini, che festeggiavano battendo le mani come se passasse la statua del santo patrono di fronte alla gazzella dei carabinieri che portava via Cosima Misseri, arrestata per il stranoto delitto di Avetrana. Mi sono detto: ma a chi ha insegnato a questi ragazzini come ci si comporta anche in certe occasioni, anche quando passano persone in manette che viene portata via, che è come se passasse un funerale? Ma oggi si batte le mani anche ai funerali, oggi capita vedere che ai funerali si batte le mani, alla fine di un matrimonio, celebra il matrimonio, il prete, c'è un bel applauso per gli sposi, e in chiesa tutti battono le mani come se fossero a Rischiatutto o una serata del Festival di Sanremo. Ultimo esempio per farvi capire quello che è l'argomento: Carla Bruni, la prima donna di Francia, al G8 di Deauville, ha voluto mostrare al mondo che è veramente incinta. La veridicità dell'ingravidamento del Presidente della Repubblica Francese si è esternato in una sorta di passerella di fronte a tutte le first lady degli altri paesi, in cui Carla Bruni, in un bel vestitello corto, con le belle scarpe, con la suola rossa come succede, ha rifatto la scalinata come lo fece nella famosa Callipigia foto che la rese celebre a lei e la Rampolla di Spagna, a un certo punto ha aperto il suo impermeabilino e ha accarezzato il pancione. Quella era la prova che tutti i media aspettavano, che lei è veramente incinta. In un momento strategico in cui l'ingravidamento fa anche alzare, naturalmente, dovrebbe almeno far alzare il gradimento nei confronti dell'Augusto consorte. Ecco, queste tre cose messe insieme dovrebbero farvi riflettere. Chi oggi determina le regole del comportamento? Quali sono le differenze fra il cerimoniale pubblico che dovrebbe seguire comunque una persona coinvolta o un capo di Stato, il protocollo che in certe occasioni impone certi comportamenti, o anche il semplice e banale comportamento nei confronti delle persone quando si è seduti nell'autobus, ma anche quando si sta a tavola, quando si parla in una riunione d'ufficio, quando si cammina per la strada, quando si scambia il cappuccino con una sconosciuta al bar? Beh, una volta queste cose venivano insegnate in casa, una volta anche la scuola aveva un momento in cui c'era qualche antica e saggia maestra che ci insegnava come si stesse a tavola. Ricordo antichi rituali familiari di tenere i quaderni sotto i gomiti per tenere le braccia ben strette quando si sta a tavola, come si usano le posate, come si mangia, come si mette in bocca un boccone. Poi c'è ancora qualcuno che insegna queste cose. Come passano di padre in figlio queste cose? Come accade che le persone sappiano comportare? Esistono dei luoghi in cui questo passaggio sappia sapienziale ancora mantiene una sua matrice diffusa verso il mondo, o a un certo punto cambierà completamente il comportamento. 800240024. Per farsi perdonare l'increscioso incidente, i conti Serbelloni, un'astuta mossa padronale, invitarono Fantozzi e Filini al tavolo d'onore. Metta quella roba al posto. Impiegato? Fantozzi. Impiegato. Impiegato. Mi permetta di presentarle alcuni nostri amici. Eccellenza, l'eminenza, l'evitanza, Donia Minias de Coral. Mi scusi, ho le mani un po' sudate, allora. Generale di squadra aerea, Ernesto Maria Lampioni. Marchesina Giava del Corpo. Lei conosce le regole, Fantozzi. Lei sa come deve comportarsi in società, non è vero? Quello che deve fare, quello che non deve fare. Vedremo. Il re de razionem, le vere forche caudine in cui l'impiegato, infimo nella categoria e anche nella sua essenza umana, viene assunto alla mensa degli dèi. Va al tavolo dei grandi della sua azienda, che in realtà corrispondono a delle sfere quasi angeliche, e si trova di fronte a quello che è la rappresentazione del potere, fatta di contesse, di industriali, di gentildonne, di giovani pulcelle di alto lignaggio, e lui ha la mano talmente sudata che non riesce a darla, che la mano degli altri schizza via, e gli impone il suo capo: lei conosce le regole. Già, ma chi ha insegnato mai le regole a Fantozzi? Ai Fantozzi di oggi chi insegna le regole? Come fanno a muoversi in società? Come fanno a progredire dal loro stato di basso impiegatizio? 800240024. Come fate voi? Vi siete mai trovati in imbarazzo? Avete imparato alla belle meglio? Avete improvvisato? Avete visto fare al cinema, poi avete riprodotto? Avete comprato dei manuali specializzati? Siete andati a fare dei corsi? Avete chiesto a qualche vecchia zia, a qualche nonna in carrozzella, come ci si comporti al mondo? O, naturalmente, andate allo sbaraglio? Impiegato, lei conosce il nostro ambasciatore di Germania? Il conte Otto von Huber Steiger. Ah, Hitler. No, scusi. Può chiamare me solo Otto? No, no, almeno 9. E 10, 11, 12. Alla fine la spuntò Fantozzi. 30 l'ore. I bicchieri. 5 calici sfasati sulla sinistra. Altri 5 sfasati sulla destra. Da quale parte bere? Ma non ha sete, impiegato? Ho la salivazione leggerissimamente azzerata. E allora beva. Tordo! La cosa più difficile in natura. Come sto andando, scusi? Male, per Dio! 800240024. Abbiate il coraggio di rivelare il vostro fantozzismo quando... tutte le volte in cui vi siete sentiti inadeguati in certe occasioni, nelle quali vi mancava il necessario bagaglio di norme di comportamento per non sentirvi in imbarazzo, per essere leggiadramente all'altezza dei vostri commensali o delle persone con cui stavate assieme, per riuscire a muovervi senza dover imporvi di capire, vedere, occhieggiare, copiare, cercare di fare quello che fanno gli altri. Barbara Ronchi della Rocca, buongiorno. Buongiorno. Barbara Ronchi della Rocca è un'esperta in protocollo cerimoniale, al punto che è lei molte volte a dare le istruzioni necessarie per sapersi muovere in certe occasioni ai tanti fantozzi che abbiamo sentito in grande difficoltà. Tra i suoi libri cito Questioni di stile, Sperling e Kupfer, 2004. Allora, le ho dato, Barbara Ronchi della Rocca, un quadro molto vasto di situazioni prese dalla cronaca di questa mattina e di repertorio del fantozzismo. Però vorrei una domanda precisa, una risposta precisa. Carla Bruni, che accarezza la pancia di fronte a tutte le altre signore, mogli dei grandi capi di Stato, è in linea con un protocollo e un cerimoniale che si addice alle First Lady, oppure è stato semplicemente un compiacere i fotografi che questo volevano? Ma la risposta era già ovvia nella domanda, è un no su tutta la linea. Non solo non è in linea col protocollo, non solo non è in linea col cerimoniale, ma diciamo la verità, non è neanche in linea con le buone maniere tradizionali di noi tutte persone comuni. Una gravidanza è senz'altro una bella cosa, è una gioia, ma non va ostentata, non va usata come bandiera, non va vissuta così come la sta vivendo la signora Bruni Sarkozy, che è chiaramente si considera più una cantante, una top model prestata all'alta politica che non una first lady, una premier dama. Ecco, il cerimoniale in questo caso cosa imporrebbe? Il cerimoniale imporrebbe un silenzio assenso, diciamo, cioè visto che la natura si preoccupa di far vedere dopo un po' che una signora è in dolce attesa, stava zitta o faceva per tacitare tutte le illazioni che lei stessa ha sollecitato, uno scarno comunicato come fanno di solito i caseregnanti, che dicono che la regina, la principessa, la duchessa, eccetera, dalla tale data sospenderà ogni attività pubblica, e di solito la tale data corrisponde all'inizio del sesto mese. Beh, lei al G8 c'è andata apposta perché il mondo sapesse che Sarkozy, ecco, è ancora fecondo, quindi... Ecco, poteva dire semplicemente che la signora Carla Sarkozy, essendo in attesa di un bambino, rallentava le proprie uscite pubbliche, però evidentemente era troppo poco glamour, ecco. Il problema nostro è che le buone maniere sembrano sempre troppo poco. Abbiamo sentito poc'anzi citare per esempio l'applauso ai funerali, che devo dire è una cosa che non solo stride con le buone maniere, ma stride anche con la religione, e mi faccio forza di quello che ha detto il Papa. Quando era ancora a presiedere la Congregazione per la Fede, Cardinale Ratzinger mandò una letteraccia molto rigorosa ai sacerdoti dicendo che la Chiesa non è un luogo di spettacolo, per cui si proibivano i battimani in Chiesa. Purtroppo questa lettera non fu recepita con la giusta attenzione, venne considerata un vettume. Guardi, non c'è prete di campagna, parroco di Borgata o di grande basilica romana che alla fine del matrimonio un bel applauso agli sposi. Sì, infatti, magari al bacio, no? Sì, al bacio, certo. Una cosa che non è una tradizione cattolica, ma una tradizione dei film hollywoodiani. E poi appunto può poi baciare anche la sposa, e poi anche il battimano al funerale, che il battimano al funerale si concedeva innanzitutto fuori della chiesa sul sagrato e solo per gli attori. Perché? Perché si considerava che questa persona, che oltretutto ricordiamoci che fino al 700 venivano seppelliti fuori dalla terra consacrata, certo, comunque questa persona faceva la sua ultima uscita di scena e allora gli si concedeva l'ultimo applauso. Ma io quando vedo applaudire l'eroico carabiniere morto in una missione in Afghanistan, vi assicuro che ci sto male, perché è uno spettacolarizzare una morte che richiederebbe da parte di tutti noi il silenzio e, per chi ci crede, la preghiera. L'ultima interessante annotazione di Barbara Ronchi della Rocca sul fatto di Avetrana. Allora, Avetrana è una situazione paradigmatica, un paese attraversato la televisione per un anno che è diventato un set televisivo. Arrestano zia Cosima, uno dei personaggi chiave, come se fosse una soap opera, del delitto della piccola Sara. La popolazione applaude, festosa, bambini che ridono, donne che ridono. La invito dopo la trasmissione a guardarsi questa foto, è veramente sconvolgente. Ecco, a che punto è arrivata la maniera di concepire il plauso pubblico, la tenuta familiare, la solidarietà di paese e le manifestazioni esterne della gioia o della soddisfazione? Stiamo vivendo, per molte persone che purtroppo non hanno... dal punto di vista culturale o dal punto di vista anche morale, degli anticorpi un po' potenti, stiamo vivendo in una soap opera continua, in un grande fratello generalizzato. Io credo che se prendessimo singolarmente quelle donne, quegli uomini, quei bambini che si sono abbandonati a un gesto che mi sembra solo tipico di quelli che andavano a vedere le impiccagioni in piazza e applaudivano, ecco, se li prendessimo singolarmente diremmo: ma ti rendi conto che è una famiglia devastata, che è una tragedia terribile? Ecco, forse singolarmente rifletterebbero e si vergognerebbero, ma è il gruppo che fa sì che tutto diventi spettacolo. Sentiamo qualche ascoltatore. Lisa, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletti. Mi permetto di non essere d'accordo su un punto, di spezzare una lancia nei confronti di Carla Bruni. Forse sarà contro il cerimoniale, non lo metto in dubbio, la buona etichetta, eccetera, ma Carla Bruni ha compiuto un gesto antico, e questo lei in parte l'ha detto. Si è toccata la pancia, ha fatto vedere che la regina è incinta. Non soltanto che il re è fecondo, ma che c'è un erede, e che lo faccia la moglie del presidente francese, cioè del presidente di un paese che ha inventato il cerimoniale di corte nel 600 con Luigi XIV. Ma l'erede non c'è l'ostensione dell'erede, no. Una volta che nasce, ancora sì, dentro la pancia. No, ma nella corte di Luigi XIV era tutto pubblico. Dalla toilette del re la mattina fino all'addormentamento, sì, cioè c'è una dimensione pubblica. I tempi un po' cambiano, che... oggi certo. Non è che la fanno nel vasino certo. Di fronte al Consiglio no, dei Ministri. Però è molto interessante il fatto che in realtà ha richiamato, compiuto inconsapevolmente, naturalmente, qualcosa di molto antico. Poi sentiremo cosa dico. È chiaro, Lisa, ho capito perfettamente. Andiamo avanti, sennò mi mangio tutto il tempo, poi risponderanno i nostri ospiti. Rino, buongiorno. Sì, salve, mi sentite? Sì. Niente, telegrafico e chiedo venia se faccio saltare di palo in frasca. Io così, anche con aria molto leggera, a proposito di bon ton, volevo finalmente avere la possibilità di dire agli amici della Lega, e ovviamente la cosa non riveste carattere politico. Io non voglio censurarla a priori, parlo di abbigliamento. Ah, l'abbigliamento, sì. A me non spaventa nulla. No, a proposito delle cose squisite che lei ha detto rispetto al fatto di... Le cravatte verdi, vuol dire le cravatte verdi non le piacciono? No, infatti, no, soprattutto no, le cravatte verdi vanno benissimo, non vanno assolutamente bene sulle camicie blu o azzurre, quindi agli amici della Lega, cortesemente, un bel bianco, una camicia bianca, potete mettere tutti i verdi che volete. A lei dice la cravatta verde va bene, ma non la mettete sulla camicia scura perché fa schiaffi, blu e verde. Sì, non voglio una giusta notazione. Magari uno dovrebbe scegliere in verde un po' meno squillante, però quella è come una divisa, è come un segno di distinzione. Conto, però c'è bisogno di un fondo bianco, lo dico da detto a lavori, anche perché Berlusconi l'altra volta disse che... Ma non fa troppo bandiera poi, bianco e verde? Fa troppo bandiera, forse, hanno fatto questo ragionamento. Guardi, è un quasi tricolore e quindi contraddice la camicia verde. Beh, il bianco in realtà, come dire... Sì, ma il bianco e verde è due terzi del tricolore. Siccome il tricolore rappresenta un'unità nazionale, la camicia verde, la cravatta verde contraddice il tricolore, non può ribadire due terzi del tricolore. Però mi fermo un attimo, Rino, è perfettamente chiaro. Lascio la linea velocemente alle informazioni della borsa, perché poi avrò una persona che risponderà in maniera ancora più puntigliosa sugli aspetti istituzionali, su quello che è il cerimoniale dell'etichetta legato proprio alle istituzioni. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Lezioni di protocollo. Come disporre gli ospiti a tavola. La scelta della disposizione dipende in primo luogo dal tipo di evento e dal numero di invitati, ma è strettamente condizionata dalla forma e dalle dimensioni della sala. Cominciamo il nostro esame dalla tipologia più frequente e semplice, il tavolo rettangolare. All'attualità vengono prese in esame due scuole di pensiero nell'attribuire il posto di presidenza. La scuola francese prevede la presidenza al centro della tavola, la scuola anglosassone la presidenza sulla punta della tavola. Con la scuola francese le persone più importanti sono vicine, facilitando la creazione di un polo di conversazione importante. Alle estremità del tavolo si formano altri due poli di conversazione secondaria. Con la presidenza anglosassone le persone più importanti sono alle due estremità del tavolo, creando in questo modo due poli di conversazione importanti. Così nasce naturalmente anche in ambito familiare l'idea e l'esigenza di un terzo polo. Normalmente non ho mai fatto questo problema, avendo ammassato la gente quando viene a casa mia la belle meglio, alla fine finiscono le sedie, entrano in gioco gli sgabelli, finiscono gli sgabelli, entra in gioco ogni oggetto usabile come sedile, si siede chi vuole, dove vuole, quando vuole, ma ahimè gli architetti che passarono per casa mia trasformarono mia casa in una cucina abitabile con luogo in cui si fa di tutto, quindi non ho questo problema, grazie a Dio. 800240024, oggi parliamo di norme di comportamento. Ci siamo lasciati alla fine della prima parte che si parlava di quanto le istituzioni sono coinvolte in delle regole di comportamento e quanti conoscono veramente queste regole. Molte volte ci si rivolge a un capo del cerimoniale. Il capo del cerimoniale è una figura abbastanza in disuso, perlomeno ci sono ancora, ma sono apparentemente, questo lo so per sentito dire, vediamo se ne avrò la conferma, sempre meno consultati, sempre meno importanti, si cerca sempre di evitare, non ci si fa caso al fatto che occorra seguire un cerimoniale. Abbiamo scovato nelle nostre investigazioni un giovane studente di giurisprudenza che in realtà sogna e vorrà fare il capo del cerimoniale al Quirinale, come minimo. Al momento è capo del cerimoniale al comune San Michele di Ganzaria, provincia di Catania. Damiano Iannizzotto, buongiorno. Buongiorno dottor Nicoletti e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Risponde a verità al fatto che la sua vocazione sin da bambino è quella di essere di occuparsi del cerimoniale di una grande istituzione? Beh, certamente, così come tutti i colleghi cerimonialisti non sognano altro che servire le istituzioni attraverso la cura dei cerimoniali. Ma come le è venuto in mente a un giovane, un ragazzo che dovrebbe giocare a pallone, giocare con le figurine, la PlayStation, occuparsi di cerimoniale, cominciare a studiare il cerimoniale? Ma queste sono senz'altro vocazioni innate, quindi l'attenzione, la cura di tanti piccoli particolari partendo dalle feste rionali, dalle feste di paese, così avendo quella curiosità e quell'attenzione di guardare la posizione del sindaco durante la processione della festa patronale, piuttosto che la presenza o meno del gonfalone della città ad un evento come per esempio un convegno o un seminario di studi. Lei adesso si sta facendo le ossa come se fosse un seminario in questo comune che l'ha fatta capo del cerimoniale. È il suo comune di origine? Sì, sì, è il mio comune di origine, un piccolo centro della provincia di Catania e certamente, come diceva lei prima, non tutti gli enti sono attualmente dotati di una figura come la mia. Molte volte, non avendo ancora la figura del capo del cerimoniale una propria configurazione giuridica, ci si deve purtroppo affidare alla sensibilità degli amministratori locali. Ma l'ascoltano, le danno retta quando lei dice: guarda, in questa cerimonia è giusto, tu stai tre passi dietro il vescovo, devi baciare l'anello, oppure il gonfalone va sistemato in questa maniera. Adesso non so esattamente, sto improvvisando. L'ascoltano? Sì, devo dire che fino ad ora... c'è questa curiosità da parte di molti, anche perché, come dire, sapendo della presenza di un cerimoniere, si ha un attimo di timore. Allora, Iannizzotto, le do una grande occasione. Se lei fosse oggi capo del cerimoniale della più grande istituzione pubblica possibile, ho detto il Quirinale, ma mi dica lei e si offra lei, quali sarebbero le cose che cambierebbe subito o sulle quali vorrebbe intervenire? Che ha visto errate in televisione o non esatte o non secondo quella che è la regola del cerimoniale? Ma guardi, una cosa che a me da addetto ai lavori dà molto fastidio è sentire in televisione grandi esponenti delle istituzioni darsi del tu e chiamarsi per cognome o addirittura per nome. Come dovrebbero chiamarsi? Onorevole Iannizzotto? Allora, bisognerebbe così, che loro conoscessero in maniera esatta e corretta l'attribuzione degli appellativi. Per cui se durante una trasmissione di comunicazione politica si trovano di fronte due membri del Parlamento piuttosto che un parlamentare o un membro del governo, bisognerebbe che si appellassero l'uno con l'altro con gli appellativi che sono propri. Diciamo, sarebbe già molto che non si sfanculassero come fanno spesso in televisione. Esatto, mi consenta la libertà di espressione, però il termine era quello, o non si urlassero in faccia o non si insultassero. Sarebbe preferibile quello. Invece nelle cerimonie pubbliche, le grandi cerimonie pubbliche che vede o le grandi occasioni che la televisione permette di vedere, dove vede delle regole che le fanno piangere veramente il cuore offese? No, io in realtà vedo una cattiva comunicazione di queste regole, nel senso che il cerimoniale è un linguaggio che fino a qualche tempo fa era appannaggio esclusivo di alcuni maestri indiscussi del cerimoniale, ma che oggi, nell'ambito di una democrazia rappresentativa come la nostra, deve essere correttamente comunicato. Per cui io mi auguro che nei prossimi anni, anche da parte dei giornalisti, ci sia maggiore attenzione verso queste regole e che per esempio le telecronache di grandi eventi istituzionali come per esempio la festa della Repubblica o altre occasioni, come dire, in vari momenti protocollari vengano spiegati in maniera corretta, in modo tale da consentire ai cittadini di comprendere appieno il significato di tanti gesti che altrimenti rimangono. Damiano Iannizzotto, le faccio un grande auguro. Quando sarà lei capo del cerimoniale al Quirinale o a Palazzo Chigi, sarà lei che chiamerà i colleghi e dirà loro come comunicare. Barbara Ronchi della Rocca, riprendiamo la nostra esperta in protocollo e cerimonie, ricordo fra i suoi libri Questione di stile, Sperling e Kupfer, 2004. Rispetto a quello che ha detto Iannizzotto, parliamo di istituzioni, parliamo di cerimoniale nell'ambito istituzionale. È d'accordo con quello che ha detto il suo giovane collega e ha qualcosa da aggiungere? In parte sì, perché purtroppo appunto si tratta di ignoranza, scusatemi, non è un'offesa da parte dei colleghi giornalisti, per cui a volte un gesto viene interpretato malamente, non lo so, adesso per non entrare in polemica con un giornalista o un giornale in particolare, faccio un esempio che al storico. Quando Vittorio Emanuele III andò in visita dal Papa dopo i Patti Lateranensi, non si inginocchiò al bacio della pantofola come allora usava, e tutti a dire guarda lì è un re mangiapreti, non è cattolico perché non ha fatto quel gesto di omaggio. Invece, in realtà, se fossero informati sul protocollo, avrebbero saputo che i re non sono mai stati tenuti al bacio della pantofola, neanche nei tempi in cui il protocollo vaticano era molto più rigido e molto più bizantino. Quindi a volte si interpreta come un rifiuto, un'offesa, un proclama di qualche cosa, un gesto che invece è semplicemente strettamente protocollare. Ma oggi si bacia ancora l'anello ai cardinali? Non si bacia, nel senso che non è più protocollare l'obbligo del bacio dell'anello, quindi il bacio dell'anello è una scelta personale, diciamo, del cattolico. Perché di solito poi i cardinali, io che ero abituato da bambino a farlo, tirano via sempre la mano, quindi è una sorta di braccio di ferro. Uno va lì e loro strappano la mano. I cardinali, diciamo, più realisti del re, non vogliono dar l'impressione di offrire l'anello al bacio, perché, ripeto, non è più un... Beh, però un po' gli dà gusto, negli occhi si vede che sono contenti. Sì, anche perché chi va a baciare l'anello ammette di rispettare il cardinale non come figura istituzionale protocollare, ma come invece figura... Beh, a me piace perché è bello, cioè uno non può rinunciare, è quell'anellone lì, divertente farlo. Sentiamo Roberto. Roberto, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Allora, la mia esperienza, io volevo parlare proprio del discorso del cerimoniale, visto che avete mandato anche un breve servizio. Io mi sono trovato 5 anni fa, facevo un altro lavoro, facevo il ricercatore in economia, a organizzare un convegno qui su Prato. Ecco, praticamente io ho scoperto un mondo di organizzazione proprio di questo cerimoniale che mi ha levato 2 settimane di vita dall'angoscia. Se sgarravo qualcosa... E vi faccio un esempio, così poi i nostri esperti possono corroborarlo. Allora, è stata soprattutto nella disposizione, oltre nel rispetto dei tempi di parlare, perché c'è sempre chi sfora, e nell'ordine soprattutto degli interventi, anche la disposizione sul tavolo dei relatori. Minimo. Lei perché non è mai stato relatore, ma quanto rode trovarsi nell'angolino quando di fronte magari al centro del tavolo c'è una persona che sai che rispetto a te non hai 4/4 di nobiltà professionale per poter stare in quel posto. No, vabbè, io ero in un angolo, ma io dovevo fare un po' il chairman, però praticamente mi dissero addirittura all'università a trovare una persona che mi spiegasse questo, che ci doveva stare al centro il presidente della società, che ovviamente ci dava lavoro a tutti, certo, a destra il sindaco e a sinistra il rappresentante della provincia, e mi erano state raccontate anche cose, io penso siano leggende metropolitane, tipo di un sindaco era stato messo un pochino più spostato e non ha rivolto parola per anni all'intero dirigente. Insomma, ecco, io mi sono trovato per 2 settimane nella fase di organizzazione di questo convegno, mi sono tolto 2 settimane di vita, perché chiaramente questo mi serviva anche per far arrivare fondi di ricerca al laboratorio dove lavoravo, e qui avevo paura solo di bruciarmi. Ecco, solamente questo, ecco, per un cerimoniale si può angosciare una persona, ecco, tutto qua. 800 24 00 24, tra un istante, dopo le informazioni del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. I biglietti da visita. Quando si organizzano eventi di business, soprattutto nel caso di ospiti di diverse culture, occorre informarsi sul relativo protocollo. In Asia, ad esempio, i biglietti da visita sono molto più importanti che da noi e servono a presentarsi e a fornire la prima impressione, quindi teneteli sempre in ordine. I primi ad offrire il biglietto da visita dovrebbero essere gli ospiti. Il biglietto va presentato con il nome rivolto verso l'interlocutore, in modo che lo possa leggere. Se ricevete un biglietto da visita, prendetevi il tempo sufficiente a leggerlo e rivolgetevi all'interlocutore con il suo nome. Non scrivete mai su un biglietto da visita ricevuto. Questa scheda e anche la precedente l'abbiamo trovata in internet, l'abbiamo presa dalle lezioni di protocollo cerimoniale di Stella Romagnoli. Sono delle dispense messe in internet che spiegano come ci si comporta in certe occasioni. Marcello, buongiorno, velocemente. Buongiorno dottor Nicoletti e complimenti per la trasmissione. Niente, è un aneddoto. Lo sa che il protocollo della partecipazione alla trasmissione radio prescrive, anzi impone, che non si dica mai complimenti per la trasmissione? Io lo dico con bonarietà. Va bene. No, sennò scatta la motosega solo per quello. Prego, ok, avanti. D'accordo. Le racconto un aneddoto capitatomi parecchi anni fa. Lavoravo in un'azienda che si occupava praticamente avevamo praticamente dei contatti con il Vaticano, con il mondo ecclesiastico. Il mio capo mi chiamò e mi disse: vieni con me a Roma, dobbiamo andare a un simposio. Andiamo a questo simposio e per tutto il viaggio mi dice: allora ti raccomando, eccellenza a questo, eminenza a quest'altro e via dicendo. Io avevo 25 anni, sono arrivato praticamente al simposio che ero paonazzo, mi sono sentito Fantozzi per la prima volta in vita mia. E ha sbagliato tutto? A un certo punto. Ha baciato l'anello al chierichetto, ha detto eminenza al parroco, ha detto così, ha sbagliato tutto. Dottor Nicoletti, a un certo punto mi presenta il cardinale, io ormai ero paonazzo, la lingua con sudorazione azzerata, lo guardo e gli dico: santità, questo mi guarda e mi dice: ma io non sono santità. E io a un certo punto non sapevo più cosa dire e gli ho detto: vabbè, la faranno. Beh, sì, santità è un po' troppo. Sì, sono sentito un po' Fantozzi e un po' Totò. Vabbè, può capitare. Barbara Ronchi della Rocca, la nostra esperta in protocollo. Avremo un vastissimo armamentario di consigli da dare, ma limitiamoci agli episodi che sono stati citati. Innanzitutto, i biglietti da visita e i rapporti con popolazioni molto diverse da noi. Parte del suo lavoro, so, è istruire i nostri manager, i nostri funzionari, e quando vanno all'estero, vanno nei paesi arabi, in Giappone, nell'estremo oriente, devono capire che lì è un po' diverso rispetto a come ci comportiamo noi. Sì, soprattutto sono paesi in cui c'è ancora una ritualità di comportamento che noi abbiamo superato, credendo fosse bene, ma questa è una scelta ormai. Che non è sovrastruttura, secondo me è essenziale nel gestire i rapporti. Anche perché si azzerano completamente certe espressioni di rispetto esteriore, ma che permettono anche di affrontarci in maniera più rilassata. Mi spiego meglio. Se mi chiedono che cos'è la buona educazione sul lavoro, io dico: è l'arte di tenere le distanze. E spesso mi guardano dicendo: ma perché devo tenere le distanze? Come se fosse una cosa negativa. E io spiego che invece tenere le distanze vuol dire saper stare al proprio posto e saper mettere l'altro al proprio posto. Permette tutta una grammatica di lavorare insieme, che se noi queste distanze le bruciamo non c'è più permessa. Cioè, se io la butto subito sull'essere molto amichevole, molto con un rapporto personalissimo, non la gestisco più. È difficile dire dei no, discutere un prezzo e cose del genere. Quindi cordialità, grandi dimostrazioni di stima, ma sempre di rispetto. E quando un orientale mi dà un biglietto da visita, io lo devo prendere con due mani innanzitutto, mai con una mano sola. E questo vale per Giappone, Corea, Cina, eccetera. Se invece sono in un paese arabo, devo stare attentissimo a non usare mai la sinistra, perché la sinistra è la mano del diavolo ed è offensivo prendere un oggetto con la mano sinistra. Quindi se una persona mi dà il suo biglietto da visita, che ritualmente è la sua persona, è il suo essere aziendale, io lo prendo con la sinistra, dimostro subito una mancanza di rispetto che fa sì che il resto dei rapporti sia poi... È dura per un mancino, deve fare proprio un'operazione importante. Infatti è per quello che io dico: bisogna sempre essere molto presenti a se stessi, non dobbiamo essere disinvolti, non si può dire: io faccio affari come se giocassi a pallone con gli amici, perché non è vero. Fare affari pretende un autocontrollo continuo, anche in questo caso, cioè dire, ricordatevi che se siete mancini non dovete usare la sinistra per avere rapporti con gli altri, cioè per toccare gli altri, toccare gli oggetti che prendete o che date. Poi naturalmente uno a tavola mangia con la sinistra, per forza, non si tratta di mascherare il proprio, la propria attitudine. Anche Obama è mancino, però se ci fate caso non tocca mai con la sinistra le persone, a meno che non sia proprio nella sala ovale della Casa Bianca o in America. Comunque, lì succede di tutto nella sala ovale, altro che... ma poi comunque sono rapporti di diverso tipo, c'è una cultura condivisa e omogenea. Il protocollo, il cerimoniale sono ideali proprio perché permettono di confrontarsi alla pari fra culture non omogenee. Poi ho notato fra le tante telefonate degli ascoltatori, alcune le abbiamo fatte ascoltare, altre le vedo nel mio monitor, il rapporto con la Chiesa. Ora, in ambito ecclesiastico si è mantenuta comunque una tradizione, nei seminari ancora insegnano certe regole, anche il più sperduto vescovo del più sperduto paese d'Italia comunque sa le regole. E quindi chi non abita in ambito romano, noi a Roma è normale, ce l'abbiamo al di là del Tevere, ne incontriamo in ogni dove, si trova in difficoltà perché in quel luogo, in quell'ambito, in quel tipo di istituzione si è mantenuto un cerimoniale e gli altri si trovano imbarazzatissimi. Infatti, quindi proprio... meglio un prete ignorante che un raffinatissimo professore universitario messo insieme a tavola, il prete si comporterà meglio comunque. Beh, anche perché il prete, proprio per la sua formazione morale, ha conservato un'umiltà che, ahimè, il professore universitario non ha quasi mai. Perché quando uno è in difficoltà o comunque non sa bene come comportarsi, il primo consiglio che gli si può dare è guardare intorno, copiare dagli altri. Però questo vuol dire ammettere la propria insipienza in materia. Purtroppo sono sempre meno le persone che ammettono di non conoscere delle cose. Quindi io vedo dei professori universitari, dei politici, dei grandi intellettuali che a tavola si comportano malissimo, sbagliando bicchiere, sbagliando posata, mangiando tutto il pane del vicino, perché non so se avete presente, sì, accade, sì, che a tavola il piattino del pane... A me è successo di peggio, sinistra. È successo di peggio, guarda, intingere il pinsimonio nel vicino, prendere il sushi del vicino... Perché c'è questa idea di io mi servo alla mia destra, invece no, la mia parte è la mia sinistra. Quindi ci sono i poveri educati che si trovano privati del pane, del sushi, del pinsimonio perché il loro vicino gli ha mangiato tutto. Ecco, perché? Perché si tratta di persone che non si pongono minimamente l'idea di dire posso sbagliare, quindi do un'occhiata. Il consiglio d'emergenza qual è allora, Barbara Ronchi la Rocca? Dare un'occhiata prima. A me è capitato a volte in pranzi ufficiali, rare volte mi è capitato per lavoro, quando uno ha 6 forchette, 15 coltelli e 10 bicchieri, aspetta un attimo e vede... Aspettare un attimo, la fretta è nemica di tutto. Anche del bon ton. Quindi stiamo a chiacchierare con un bel sorriso sulle labbra, flirtiamo con il nostro vicino di tavolo e intanto aspettiamo. C'è sempre uno. E se il vicino aspetta noi, che facciamo? Ma via, a un tavolo non siamo mica in due. Bisogna guardare quello più importante, il capo. Ecco, guardiamo quello più importante, oppure guardiamo a volte il cerimoniere, oppure il sacerdote di turno, cioè la persona che per cultura, per preparazione, per lavoro sa come ci si muove. Barbara Ronchi la Rocca, le sono molto grato, penso che data l'affluenza di richieste che sono state fatte su questa trasmissione, torneremo su questo argomento, quindi ci avvarremo ancora dei suoi consigli. Grazie a tutti, a lunedì. Parti dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.